Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti anche a questo terzo appuntamento del Pioniere, trasmissione della nostra emittente in collaborazione con il CRAP, il Comitato Ricerche Pionieri Italiani, e dopo aver analizzato come si è ricostituita, cercando in diversi luoghi una collezione assolutamente dispersa nel decorso dei decenni del Pioniere, oggi assolutamente disponibile online e per tutti in modo radicalmente no copyright sulla rete nel pioniere.org, questo è l'URL. E dopo aver parlato anche di alcuni tratti della battaglia del Pioniere culturale, che fu un braccio di ferro fortissimo negli anni 50 contro in particolare una mentalità clerico-cattolica che voleva l'egemonia degli oratori sui giovani, e quindi c'era questa contesa sul futuro e sulla ricostruzione non solo materiale ma anche culturale del paese. Beh, oggi continuiamo a parlare di memoria e lo facciamo con lo storico Marco Fincardi, docente dell'Università di Venezia Ca' Foscari, che ha fatto diversi studi sul mondo giovanile nel Novecento e in particolare come la sinistra italiana ma anche quella europea, e su questo noi concentreremo la nostra attenzione, beh, su come questi movimenti di sinistra cercavano di organizzare i ragazzi dandogli una prospettiva socialista. In questo anche il fumetto naturalmente giocava la sua grande parte. Ascoltiamo questa intervista, questa prima parte dell'intervista con Marco Fincardi. Abbiamo con noi Marco Fincardi, docente di storia contemporanea a Ca' Foscari di Venezia, e con lui tracciamo un po' il percorso di una tradizione fumettistica, diciamo, di sinistra nella nostra vecchia Europa, perché è una tradizione abbastanza antica che affonda nel Novecento. E c'è una tradizione che viene da lontano, che è di associazionismo dei ragazzi, che coinvolge anche il movimento operaio e varie realtà della sinistra, più o meno dissidente, dallo scautismo, da varie altre forme associative che c'erano, ma già dalla fine del Novecento in varie realtà il movimento operaio comincia a organizzare, a lanciare dei giornalini per i ragazzi, che magari inizialmente sono giornalini così più rivolti ai figli dei militanti e che hanno una così una impostazione di amicisiana un po' patetica. Poi invece si raffinano sempre di più e cominciano a esserci giornalini anche con delle ottime illustrazioni, che cominciano ancora a rivolgere un'attenzione particolare ai ragazzi. Non ci sono ancora dei disegnatori di grido come possono esserci su giornali come il Corriere dei Piccoli o il Giornalino dei Ragazzi di Vamba, l'autore di Gian Burrasca, però cominciano a esserci già coi romagnoli Gastone Sozzi e altri, dei disegnatori che hanno delle capacità anche comunicative interessanti. In Italia il discorso si ripresenta da dopo la liberazione, chiaramente, quindi è dopo la liberazione che cominciano a esserci dei giornalini con dei disegnatori che propongono storie della resistenza o anche storie di avventura, ma che siano storie che in qualche modo possono avere dei significati democratici, diciamo, nel senso che ci sono i neri che non sono rappresentati come il servitore sciocco o cose del genere, ma sono degli eroi. Oppure ci sono gli indiani d'America che vincono. Anche imperialismo, insomma. Certo, è un discorso generale di emancipazione dei popoli che ribalta quella che è, così è, chiaramente una cultura alternativa anche rispetto alla gestione abituale del fumetto, dove gli stereotipi più razzisti e più violenti molte volte sono riproposti riprendendoli dalla più trita narrativa d'appendice, dei romanzi d'appendice più triti, e invece lì c'è un'attenzione proprio che i contenuti del fumetto siano democratici, non propongano dei rapporti di sopraffazione, che non anche, oppure ci sono esaltazioni della scienza, delle conquiste della scienza, ci sono lo spazio, la fantascienza che sono sviluppati, ma sempre anche lì, sempre valorizzando le conquiste dell'uomo, non facendo vedere competizioni distruttive o cose di questo genere. Il fumetto in qualche modo era motivo anche di discussione nella sinistra del dopoguerra, perché alcuni lo vedevano come una letteratura di serie B, altri una cosa troppo americanizzata. Insomma, quale fu il dibattito poi all'interno, in particolare del PC, che poi editerà il Pioniere? Sì, il PC avvia il Pioniere già dal 1950, nel primo decennio sostanzialmente con una diffusione militante, quindi era un giornalino che non si trovava nelle edicole, ma veniva diffuso proprio direttamente dai reparti dei ragazzi che si organizzavano per questa diffusione, avendo dei piani proprio di conquista, come se fossero i partigiani che dovevano creare delle zone franche di conquista dei vari quartieri, rioni, delle periferie, delle campagne, per arrivare ad avere una diffusione discreta. Successivamente invece il Pioniere comincia a uscire poco prima del 60 come inserto dell'Unità, poi diventerà un inserto di Noi Donne, quindi riesce a sopravvivere fino a tutti gli anni 60, però di fatto avendo già perso alla fine degli anni 50 l'associazione che era l'Associazione Pionieri d'Italia, che era quella che in precedenza doveva essere quella che faceva crescere un attivismo dei ragazzi attorno al giornalino, che quindi riusciva a portare quello che era il messaggio del giornalino rendendolo attivo nella vita associativa dei ragazzi. Dopo di questo invece il giornalino, così, è un normale organo di stampa diffuso, rivolto in particolare ai ragazzi, con i suoi contenuti alternativi, ma senza avere più il retroterra associativo che poteva renderlo più vivo, più stimolante. Nel panorama in particolare degli anni 50, il panorama dell'edicola Fumetti in Italia era per ragazzi, era monopolizzato dal Vittorioso o dal Corriere dei Piccoli. Ecco, qual era lo stacco maggiore tra queste editorie del momento rispetto al Pioniere? Sì, c'era un'impostazione molto, molto diversa. Il Corrierino era da sempre un giornalino molto borghese, rivolto a così. Con il signor Bonaventura. Sì, ma c'era così, aveva una storia, era il giornalino dominante, per chi si poteva permettere il regolare abbonamento a un giornalino. Poi nel dopoguerra, chiaramente anche durante il regime fascista, c'era stato il Balilla, che pure quello era un giornalino molto diffuso, che ovviamente dopo il 1943 è scomparso, anche con la Repubblica di Salò non c'è poi un'editoria significativa da parte dei neofascisti. Invece nel dopoguerra sono i cattolici che si organizzano e hanno il Vittorioso, che può valersi di una firma straordinaria tra i disegnatori come Iacovitti, che invece così riesce a fare una discreta concorrenza al Corrierino, perché con la sua diffusione nei circuiti della Gioventù di Azione Cattolica ha una diffusione non proprio militante, ma che così è molto ampia e ha anche una redazione accurata. C'era da parte della dirigenza del Partito Comunista, per rispondere anche alla domanda che mi facevi prima, una voglia di competere con questi ambienti, solamente che poi il crescere della polemica cattolica, clericale, integralista contro qualsiasi tentativo della sinistra di lavorare verso i bambini e i ragazzi, poi ha tolto molto spazio, perché c'era una campagna veramente furibonda, una caccia alle streghe contro Rodari, che era visto come il diavolo. Ricordiamo che Rodari fu il direttore del Pioniere. Sì, Gianni Rodari era il direttore del Pioniere, il fondatore, assieme a Dina Rinaldi era il direttore. E quindi c'è stata questa campagna clericale contro il giornalino e anche contro l'associazione in generale. I pionieri hanno avuto un decreto di scomunica da parte dei vescovi italiani, che poi valeva anche per i genitori che avessero iscritto i bambini all'API, all'Associazione Pionieri d'Italia. Questo che anni? 50 più o meno? Questo nel 51, se non ricordo male. Quindi non molto più il 48? Sì, sì. Il clima è quello? Il clima è quello. C'è stato, mi pare nel 49, il decreto di scomunica dei comunisti, e mi pare che nel 50 o nel 51 c'è stato questo verso i pionieri. Anche. Un processo anche molto pesante si è avuto nel Padovano. Sì. Sì, c'è stato a Pozzonovo un processo proprio che ha così che si basava su delle vociferazioni che erano nate da cose fantasiose elaborate da una bambina, su cui poi erano intervenute una suora e anche il vescovo di Padova, che ha portato a individuare in un villaggio bracciantile dove c'era un circolo dei pionieri accanto alla sezione del PC un centro dove si facevano feste che sono state indicate come ritrovi pedofili o cose di questo genere. La cosa ha dato vita a un processo scandalistico che ha portato innanzitutto in prigione anche per un certo tempo gli organizzatori della sezione comunista locale, gli organizzatori dei pionieri di Pozzonovo. Poi ha tenuto sotto pressione i bambini, che erano continuamente sottoposti a interrogatori, a pressioni per confessare cose assurde, tipo che li si cercava di eccitare dando da bere bevande gassate, cioè la gazzosa o la spuma, che li si faceva ballare per eccitarli, cose del genere. Sì, beh, c'era il discorso della promiscuità, che nell'ambiente cattolico, negli oratori che si andavano diffondendo così, era qualcosa di impensabile, perché non dovevano esserci maschi e femmine assieme. Lì invece i pionieri li facevano anche ballare insieme, quindi era lo scandalo degli scandali, e venivano indicate queste cose, questi festini che si facevano come orge. E ecco, quindi la direzione del PC reagisce tutta sulla difensiva rispetto a queste cose, non è in grado, ci prova anche a ribattere, a fare un po' di controinformazione, ma alla fine la pressione clericale è tale che la dirigenza del PC preferisce mettere la sordina sul movimento dei pionieri piuttosto che continuare questa cosa. Tanto più che le speranze di una... quando si pensa all'azione cattolica tra i giovani, i beniamini, gli aspiranti come li chiamavano, aveva sui 2,5 milioni di aderenti, l'API nel suo massimo periodo di espansione, mettendo assieme anche l'AFRI dei socialisti, arrivava a 150.000 ragazzi, che erano numeri di massa, ma che per il PC non erano competitivi. Quei numeri della... rispetto all'egemonia culturale dell'epoca in cui c'era un vero e proprio regime clericale di massa in Italia. E ecco, quindi anche le prevenzioni che potevano esserci verso il fumetto, che veniva visto come un'americanata, che era molto temuto come qualcosa di di inquinante? Sì, no, dove si proponevano temi di competizione, di violenza anche molto, di trasgressività, dove c'era sempre l'assassino, il cattivo, cioè c'erano uccisioni, rapimenti. Veniva visto come qualcosa che portava la violenza insita nella società americana in Europa. E quindi c'era questo tipo di diffidenza, che era chiaramente anche una diffidenza di un anti-americanismo preconcetto, ma che specialmente in certi dirigenti del PC, come Nil Deiotti, Pajetta, ha avuto un peso, perché c'erano stati interventi pubblici proprio contro il fumetto, ma rivolti nello specifico verso Rodari e Pioniere. Dalla nostra edicola radiofonica al secondo fascicolo dell'etere della storia di Cipollino. Il riassunto delle puntate precedenti vede Polla, il padre di Cipollino, costruirsi una casa anche con la solidarietà del quartiere. Mastro Zucca gli porta un mattone, ma l'odioso esattore Pomodorone con le sue guardie espropria queste case per pura ingordigia. Cipollino, indispettito, pesta un piede ad una guardia di Pomodorone e allora ci cerca il colpevole, e papà Cipolla, per scagionare il figliolo, si autoaccusa e finisce nelle patrie galere. E a questo punto Cipollino vuol far evadere papà Cipolla dalla prigione. Cipollino, figlio mio! Padre, sei stato arrestato per quello che ho fatto io! Non importa! Ti tirerò fuori di qui! No, ti scongiuro, va via! È pericoloso! Non ti preoccupare, padre! Troverò il modo di liberarti! Costi quel che costi! Devi cercare di dimenticarmi, figliolo! D'ora in poi sarai solo, piccolo mio! Oh, padre, che posso fare? Nel frattempo, il cavalier Pomodoro cercava di trasformare la casetta di Sorzucca in una cuccia per il suo mastino. Se non riuscite a tirarlo fuori, tagliatelo a fette! Questa la paghi, brutto prepotente! E così Cipollino convinse i suoi amici a nascondere la casetta di Sorzucca nel folto della foresta, dove il cavalier Pomodoro non l'avrebbe mai trovata. Buono a nulla! Tu non meriti il nome che porti! Sei solo un ammasso di pulci! Sei licenziato, finito! Sottospecie di animale, via! Sparisci tu! Scommetto che qui c'è lo zampino di Cipollino! Il cavalier Pomodoro si recò al palazzo della reale famiglia del ciliegio. Le reali ciliegie uscivano di rado dal parco del palazzo e non sapevano che Pomodoro si era impossessato di tutte le proprietà dei poveri sudditi. Vostre altezze, siamo nei guai, guai grossi! Guai con la G maiuscola! Perdonatemi, ma una banda guidata da Cipollino sta seminando terrore ovunque! Niente panico, hanno già rubato immobili di immenso valore. Che orrore! Ma state tranquille, ci penserò io. Cipollino adesso era in serio pericolo. Il giovane principe ciliegia, anche se un po' malaticcio e debole, era comunque destinato al trono. E contrariamente alle sue crudeli zie, aveva un carattere dolce come il maraschino. Cactus! Al vostro servizio, contesse, sono qui in comandino. Cactus! Il cavalier Pomodoro ci ha detto che il criminale ci vogliono guardare da un momento all'altro. Devi nascondere tutti i vostri gioielli. Così! Fa rientrare immediatamente il principe Ciliegia! Ogni vostro desiderio è un ordine, vostre adubescenze. Principe Ciliegia! Oh, vostra altezza! Principe Ciliegia! Ah, eccomi finalmente! Cosa c'è, Cactus? Giovin signore, le vostre realizie mi hanno ordinato di portarvi al palazzo immediatamente. Il cavalier Pomodoro le ha avvertite del pericoloso cipollino. Sono di pessimo umore. Suggerisco di rientrare al più presto. Pomodoro è uno stupido e le mie zie sono sempre isteriche. Il cavalier Pomodoro ci ha messo in guardia contro quel criminale di cipollino! Cosa volete che ne sappia quel pallone gonfio? Oh, infatti di te! Sei così debole e vulnerabile! Ci stai, Sentino! Dato che non riusciva a trovare Cipollino, l'esattore delle tasse ordinò alle guardie di catturare tutti i suoi amici. Questa è un'arma illegale, ciabattino! Pertanto la confisco! Un biglietto in codice, senza dubbio! Lo decifreremo! Brigati, vegetale, il tempo passa! E non vedo l'ora di catturare quel delinquente di Cipollino. Ho sentito dire che è un vero criminale. Lui! Prendetelo! Cipollino! Prendetelo! Torna qui! Prendetelo! Adesso ti portiamo in prigione! Non riuscirai a cavartela! Eccolo! Ma dove potevamo scappare? Dove no? È qui! Arrestate Cipollino! Cipollino! Prendetelo presto! Torna qui! È inutile che ti nascondi! Blu, sono alti su per giù, due mele poco più. Noi siamo così, noi siamo puffi blu, puffiamo su per giù, due mele poco più. Vivono via da qui, nell'incantata città, riparata dalla selva, dal deserto, dai monti e dal mare. Son case buffe assai, i funghi di... Riuscirà Cipollino a sfuggire alle guardie dell'odioso esattore Pomodorone? Naturalmente bisogna aspettare la prossima uscita del fascicolo in etere nell'edicola radiofonica di Radio Fusico. Alla prossima puntata, sabato 21, quindi a risentirci, ciao a tutti. Ricercare nella foresta quel che più gli serve, più gli dà, e via dalla città, amici hanno già, e senza esitare li vanno a trovare. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non...